Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se come sempre ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Ricorderete che il 6 maggio abbiamo avuto nostro ospite Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania, perché il giorno prima a Roma era stato presentato il rapporto Ecomafia 2009 di Legambiente, in cui, per chi volesse sbizzarrirsi a leggerlo, ce ne sono di cotte e di crude sui disastri ambientali che produciamo noi italiani e che producono le ecomafie. Per chi volesse approfondire le storie, oltretutto è a disposizione anche il mio blog, dove alcune ne ho raccontate, ad esempio quella di Bova Marina in provincia di Reggio Calabria. Il blog, ormai dovreste saperlo per chi lo visita, e sono molti, è Guardie o Ladri, sull'home page del Sole 24 Ore. Ebbene, a pochi giorni di distanza, un comunicato stampa del Corpo Forestale dello Stato, che svolge un servizio straordinario sul tutto il paese, ci comunica che è stato stroncato un traffico di rifiuti pericolosi o illecitamente comunque smaltiti tra la Regione Puglia e la Regione Calabria, con profitti per oltre 6 milioni di euro, per non parlare poi dell'inquinamento provocato dalle sostanze tossiche. Insomma, la realtà supera la peggiore fantasia, anzi i peggiori incubi. E per parlare di questa situazione noi abbiamo chiamato con noi a colloquiare il comandante regionale in Calabria del Corpo Forestale dello Stato, l'ingegner Vincenzo Caracciolo. Buongiorno Caracciolo. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. E il presidente di Legambiente Calabria, Antonino Morabito. Buongiorno Morabito. Buongiorno anche a voi. Allora, io direi di partire dal Corpo Forestale dello Stato. Allora, l'ingegner Caracciolo, ci descriva questa operazione che ancora una volta ferisce il nostro paese e ferisce il nostro sud. Guardi, purtroppo la Calabria, come diceva lei prima, si trova ad essere destinataria di un conferimento di rifiuti illeciti e anche pericolosi, perché tale è la classificazione nell'ambito della normativa europea di questi fanghi derivanti dalla produzione di energia elettrica in questa centrale che si trovava a Brindisi e che venivano trasportati nei pressi di Reggio Calabria e interrati in una cava annessa a una adiacente fabbrica di laterizi. Questo è un classico, spesso si ripetono queste operazioni, ma è importante quello che ci sta dicendo l'ingegner Vincenzo Caracciolo, poi sentiremo ovviamente Morabito, perché per decenni, fin dagli anni 80, la Campania è stata destinataria di tutte le schifezze, passatemi questo termine, che giungevano non soltanto da quella regione, ma anche dalle imprese del nord. Oggi l'attenzione sulla Calabria deve essere massima, perché è diventata una nuova terra di frontiera per le ecomafie o comunque per lo smaltimento illecito dei rifiuti. Sbaglio se dico questo, Caracciolo? Ma guardi, nel caso che abbiamo trattato oggi è stato ipotizzato il reato di associazione a delinquere e di disastro ambientale. Quindi abbiamo dei soggetti ben precisi individuati, non possiamo dire che questi soggetti abbiano una relazione con contesti mafiosi, certo, o certo, di altro genere, certo, ma non lo possiamo nemmeno escludere. La magistratura ha ritenuto di contestare il reato di associazione a delinquere e per la prima volta un GIP prefigura il reato di disastro ambientale a livello preliminare, oltre reati in materia paesaggistica ambientale minore, perché la zona è un'area SIC, un sito di importanza comunitaria. Certo, siamo quindi a qualche centinaio di metri dal mare, da contesti urbanizzati. Quindi assolutamente, così come è doveroso anche specificare che l'Enel, visto che la traffico illecito di rifiuti pericolosi venivano prodotti in Puglia presso la centrale Federico II di Brindisi, sono notizie di agenzie che stiamo in questo momento guardando mentre vi parlo, ha assicurato la massima collaborazione alla magistratura. Io sposterei il piano sul presidente di Legambiente, che ha una visuale maggiore rispetto a quella di un solo luogo fisico. In questo momento stiamo parlando appunto del comune di Motta San Giovanni in provincia di Reggio Calabria, dove sarebbero stati smaltiti e dove sono stati smaltiti illecitamente questi rifiuti. E allora qual è la situazione Morabito in tutta la regione? Quali sono le province eventualmente più colpite da questi continui disastri ambientali? Ma guardi, diciamo, questa notizia, ovviamente noi facciamo un plauso all'operazione fatta dal Corpo Forestale, l'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, perché fa emergere un pezzo di quella enorme montagna di rifiuti pericolosi che scompaiono ogni anno, che noi denunciamo con l'annuale rapporto Ecomafia che veniva citato prima. Certo. Basti pensare che questa quantità, che sono 100.000 tonnellate, equivalgono a 10 torri di Pisa, per dare un'idea del volume dei rifiuti che sono arrivati dalla Puglia alla Calabria, a Motta San Giovanni, in questo piccolo comune. Come dire, non si tratta certamente, come dire, di una cosa secondaria. Questa cosa fra l'altro ci fa tornare subito in mente quello che pochi mesi fa era apparso anche con un'altra inchiesta, quella Black Mountains in provincia di Crotone, dove con altri rifiuti pericolosi, anche quelli scomparsi con certificati, vogliamo dire, taroccati, falsificati, venivano utilizzati per realizzare piazzali davanti alle scuole, palazzine pubbliche, l'astricato del porto. Quindi, come dire, anche aumentando fortemente questa pericolosità per la salute pubblica, oltre all'illecito guadagno, al vantaggio, certo, evidente, certo, certo, dello, ecco, smaltimento illegale. Assolutamente, lei ha fatto bene a ricordare quell'operazione Black Mountain. Ricordiamo che i rifiuti erano stati utilizzati anche, come diceva giustamente Morabito, per le scuole. Una, mi sembra di ricordare, proprio a Crotone, ed un'altra a Cutro. Cutro è un piccolo paese dove il tasso di criminalità organizzata, dove le cosche sono talmente potenti che sono riuscite anche a esportare poi questa potenza criminale in molte regioni del nord, segnatamente in Emilia-Romagna, la provincia di Reggio Emilia ha più di 10.000 abitanti che sono emigrati da Cutro nel corso degli anni. Ovviamente la maggior parte sono persone assolutamente degne, pulite ed oneste. C'è sempre quella piccola percentuale che riesce purtroppo a sporcare l'immagine e a soggiogare anche un'intera popolazione. E allora le chiedo, Morabito, visto che il ruolo delle 'ndrine, delle cosche in Calabria è fortissimo, per quello che vi risulta a voi come Lega Ambiente, qual è il ruolo appunto dell'andrangheta nella gestione illecita dei rifiuti? È un ruolo pesante, come purtroppo in tutte le attività illegali che vengono realizzate in Calabria e non solo. Anche questo, come si vede, è un'attività che partiva dalla Puglia e arrivava a utilizzare il territorio calabrese come discarica di rifiuti pericolosi. A cielo aperto. E quest'anno abbiamo visto, la Calabria, fra l'altro, purtroppo non è che diventi adesso la terra, la nuova terra, il nuovo Eldorado per questi traffici illegali, ma anche nel rapporto nostro di quest'anno è saldamente al terzo posto, con un aumento delle infrazioni riscontrate nel corso del 2008 nel ciclo dei rifiuti. Qui c'è anche sempre quell'intreccio tra il ciclo dei rifiuti, il rischio per la salute e in qualche misura anche il ciclo del cemento. Assolutamente connessi, certo. Riceveva questi materiali, se abbiamo ben capito, anche dalle note appena emerse dall'agenzia, come con un certificato che li rendeva utilizzabili nei laterizi. Ora sono stati tutti interrati lì intorno, con il rischio per la falda idrica e per la zona marina proprio immediatamente vicina, o in parte sono stati anche utilizzati nella produzione dei laterizi, come che era l'attività di quella impresa. Bella domanda. E anche dove sono andati a finire eventualmente. Bella domanda, e speriamo che la magistratura presto dia una risposta. Vorrei chiedere all'ingegner Vincenzo Caracciolo, questa è una mia personalissima opinione, ma in realtà è condivisa da molti, e la opinione la esprimo in questo modo, con questa domanda: ma mentre voi operate e siete attivi, anzi iperattivi, vi dannate, ma gli amministratori locali dove sono, ingegner Caracciolo? Dormono, riposano, sonnecchiano, cosa fanno? In questo caso i nostri amministratori locali hanno sempre problemi economici con cui fare conti, quindi non ce li ritroviamo mai spalla a spalla ad affrontare problemi in maniera seria, né sul fronte degli incendi boschivi, né sul fronte dello smaltimento dei rifiuti, né sul fronte della protezione civile e quant'altro. Ma un portafoglio vuoto o una cassa comunale svuotata non si concilia con gli occhi che devono essere sempre vigili. Io non credo che possano essere giustificati questi amministratori locali. No, non sono giustificati, perché è una questione di cultura, certo, è una questione di sensibilità, è una questione di impegno quotidiano che deve contraddistinguere innanzitutto il cittadino. E ancora di più, se il cittadino è un amministratore pubblico, dovrebbe avere questa sensibilità. Non sempre si trova. a volte si trova e non riesce ad avere risultati concreti. Assolutamente. Sono processi come quello che abbiamo smantellato oggi, grossissimi, che passano attraverso interessi camuffati di legittimità. Assolutamente. Per il processo taroccato a cui parlavamo rapido prima, c'era anche in questo caso, perché i rifiuti partivano come se fossero stati declassificati a non pericolosi, certo, cosa che la normativa consentiva per quel tipo di rifiuto, di fatto però non lo faceva. Assolutamente, è un trucco vecchio come il mondo che continua ad essere utilizzato. Da questi truffatori criminali. Io ringrazio per il suo intervento l'ingegner Caraccio del Corpo Forestale dello Stato, comandante regionale in Calabria, ringrazio Antonino Morabito, presidente di Lega Ambiente Calabria, in bocca al lupo a entrambi per la preziosa opera che svolgono. Grazie regia Pietro Lacorte, in studio Laura Fagin, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.